quali doti si possono, si devono richiedere a un futuro papa? Zelo pastorale, fervore evangelico, la capacità di infondere nella Chiesa lo spirito necessario per reggere le sfide del terzo millennio, oppure, stando più terra a terra, quella di mediare con sagacia di politico e paterna sollecitudine tra le mille istanze che quella organizzazione non può che esprimere? E di tutto questo e altro ancora probabilmente il candidato ha bisogno, a sgomento, suppongo, a sgomento degli elettori che stanno per riunirsi in conclave. È un algoritmo complicato quello che devono comporre quei poveri porporati, specialmente se si considera il fatto che non condividono al 100% le stesse priorità di valori. E se è vero che tutti loro possano trarre conforto nel momento difficile dalla fiducia nello Spirito Santo, e sanno anche assai bene che l'Onnipotente in questo basso mondo agisce solo per causas secundas e che la sua supervisione non esime nessuno, cardinali compresi, dalle proprie personali responsabilità. Su una cosa però sono quasi tutti d'accordo, almeno stando in discrezione dei vaticanisti. Il futuro pontefice dovrà sapere le lingue. Potrà essere, a seconda di come andranno le cose, conservatore o progressista, paolino o giovanneo, gesuita o salesiano, figlio della vecchia Europa o rampollo del terzo mondo emergente, ma nessun candidato che non sappia esprimersi disinvoltamente in uno o più idiomi che non siano il suo ha qualche possibilità di arrivare sul soglio di Pietro. Di fatto qualche aspirante che sembra piazzato anche piuttosto bene si è già visto mettere da parte per via delle sue deficienze linguistiche. Visto che lo hanno ripetuto in tanti, sarà anche vero. Ma è curioso, a pensarci, è curioso perché che sapere le lingue sia indispensabile per fare carriera è un luogo comune della cultura corrente. Come ben sanno le famiglie che devono sottostare esigissimi esborsi per spedire il figlio liceale a Barmouth o a Torquay o ovunque si organizzano degli inutili corsi estivi di inglese. Ma sembra strano che il principio si applichi automaticamente ai dignitari ecclesiastici. Il lavoro in senso stretto non è una carriera e le doti che richiede comunque dovrebbero essere altre. E poi sono tali e tanti le cause che rendono difficile comunicare in lingua straniera anche a individui dottissimi e ben preparati sul piano linguistico, sono tali e tante che sembra ingiusto farne una discriminante, l'unica discriminante per di più che finora sia stata espressamente indicata. Il Papa, in ultima analisi, è un vescovo, e dei vescovi la dottrina afferma espressamente che, pur essendo i successori degli apostoli, non ne ereditano il dono delle lingue. Quindi devono studiarsele. C'è modo e modo, però. Gli immediati predecessori di Carlo Wojtyła, per esempio, venivano dalla carriera diplomatica e padroneggiavano quindi l'algido francese in uso nelle cancellerie. Ma nessuno di loro era un vero e proprio poliglotta e tra i pontefici del secolo scorso ce n'è stato almeno uno che, quanto a lingue vive, non andava oltre all'italiano. È bello che costui, era Papa Pio X, il secolo Giuseppe Sarto, nel conclave in cui fu eletto, che è quello del 1903, un conclave sulle cui vicissitudini interne siamo particolarmente informati, perché parecchi protagonisti ne riferivano in varia sede, ne fu tratto persino un film, nel conclave in cui fu eletto cercò di rifiutare la nomina, protestando tra l'altro proprio la sua ignoranza in merito, ma gli risposero che il latino bastava e avanzava e volessero lo stesso. Il che, considerando il fatto che sarebbe stato il papa della reazione antimodernista, non fu forse una grande idea, ma sono cose che capitano. Nel XXI secolo, oggi, la situazione naturalmente è diversa. Nel 1903 la Chiesa aveva una sua lingua ufficiale, appunto il latino. La impiegava in tutte le occasioni linguistiche pubbliche e tutti gli aspiranti sacerdoti dovevano studiarsi dal seminario, se no all'ordinazione non ci arrivavano di sicuro. Problemi di comunicazione di massa non se ne ponevano, il messaggio pastorale filtrava in lingua latina dalla curia in giù finché non giungeva al livello in cui poteva essere comunicato ai fedeli in volgare. delle parrocchie in genere. Posto al culmine di quella sorta di piramide sacrale linguistica, il pontefice era a tutti gli effetti una figura remota che nella sua diocesi e non altrove i fedeli potevano forse intravedere ogni tanto da lontano, ma la cui voce udivano risuonare soltanto nelle occasioni liturgiche solenni. Oggi il Papa è uno dei divi del grande circo mediatico, la sua figura via etere sotto gli occhi di tutti ed è naturale che lo si voglia anche sentire parlare. Questo naturalmente significa sottolineare il suo ruolo e la sua figura a spese della comunità e della struttura di cui fa parte, appiattire su una figura carismatica la complessa realtà del cattolicesimo organizzato, innestare un processo che sa un poco di idolatria e molto di culto della personalità, ma anche queste sono cose che succedono. Alle masse che si accalchino personalmente ai suoi piedi o siano radunate davanti al teleschermo, il Papa deve potersi rivolgere direttamente. Sì, in teoria sì, ma in che lingua? Il problema è più complicato di quanto non paia. Di masse al mondo ce ne sono tante, si esprimono in modi più disparati. Le lingue più parlate su questa terra, per dirne una, sono nell'ordine il cinese, l'hindi e il bengali. Ma non credo che il Papa debba preoccuparsi di una competenza in tal senso. L'unico idioma a vasta diffusione che riguardi delle comunità di tradizioni cattoliche è lo spagnolo. Ma non mi risulta che i candidati più accreditati siano ispanisti di vaglia. Di cardinali che sappiano russo non ce ne devono essere molti, in ogni caso quell'area linguistica è ben presidiata dalla concorrenza, nel senso che il patriarcato di Mosca sta ben attento a impedire infiltrazioni papiste a casa sua, le lingue dell'Europa occidentale nei paesi d'origine contano poche centinaia di milioni di parlanti che in gran parte non sono cattolici, e se apparentemente sono diffuse anche nel terzo mondo, in Africa per esempio hanno un ruolo ufficiale quasi dovunque, di solito vi rappresentano solo un esile superstrato ad uso delle classi dirigenti locali e così via. In definitiva, stringi, la lingua straniera che un candidato serio non può permettersi di ignorare, oltre forse all'italiano nel caso dei non italiani, e resta l'inglese. E si capisce. È la lingua della politica, della diplomazia, delle comunicazioni di massa, dei rapporti internazionali. La Chiesa è un'organizzazione mondiale, il suo capo deve potersi rivolgere da pari pari ai grandi del mondo. E i membri della Chiesa poi siano al vertice o alla base in qualche modo devono pur comunicare tra loro e non possono che farlo in quella che è diventata in un certo senso la lingua franca in uso tra parlanti idiomi diversi. Il fatto che l'inglese oggi non sia esattamente un retaggio delle masse diseredate ma sia piuttosto l'espressione linguistica dei loro nemici, che le sue fortune siano così strettamente legate a quelle della sola potenza imperiale superstite, non esime dalla necessità di sapersene servire. Ma visto che, se mi dici con chi parli, ti saprò dire chi sei, e forse l'aver abbandonato il latino non è stata un'idea così giudiziosa.